Stasera no, no, no, non puoi dirmi di no. Stasera no, no, no, senza te non ci sto. Di alle amiche che verrai a passeggio insieme a me e che voglio stare solo insieme a te. Ti porterò, oh, oh, in un posto che so e ti darò, oh, oh, tutti i baci che ho. Se qualcuno passerà che ci amiamo capirà, fingerà di non vederci e se ne andrà. T'amerò, noi siamo giovani, m'amerai, noi siamo giovani, non voltar le spalle all'amore. Ti dirò frasi romantiche, mi dirai frasi romantiche, mai, mai, mai stasera scorderai. Stasera no, no, no, non puoi dirmi di no. Stasera no, no, no, senza te non ci sto. Giuro da domani poi faccio quello che tu vuoi, ma stasera devi uscire insieme a me. Ti dirò frasi romantiche, mi dirai frasi romantiche, mai, mai, mai stasera ascolterai. Stasera no, no, no, non puoi dirmi di no. Stasera no, no, no, senza te non ci sto. Giuro da domani poi faccio quello che tu vuoi, ma stasera devi uscire insieme a me.